vile agonia, siamo accerchiati. Parole al vento da bocche di sciroccati. Verba volant, per non parlare delle cose scritte. Tutti per uno, se quell'uno è qualcuno su Twitter. Ma ora twist of fate, non mi rattristo come un tempo, sarei out of date. Fuori tempo massimo, in Italia un classico. Fare i conti quando l'ho ormai è ridotto all'astrico. Che mi dimostri mo, tu che teorizzi, analizzi. Muovi opinioni che paralizzi, ma spingi. Più di falangi che di laringi. In ogni caso senza un tocco di meningi. Eppure aleggia questa strana superiorità. Media cultura, eletta sacro graal. Contro natura, te lo dico in verità. Chi capisce poi spiega, ma tu non sembri l'università. Rosso o nero, connotazione estinta. Sull'orlo dell'abisso l'ideale si è preso una spinta. Chi se la beve tipo pinta. C'è troppa nostalgia, tanto qualcuno gliela dà vintage. Dove prendete gli argomenti? Per non passare da indifferenti, impotenti. Dentro ruoli marginali e spenti. Processione infinita di eterni scontenti. Forse ti hanno raccontato che il tuo battito d'ali può generare un terremoto. Beh, ti sei forse svegliato un po' madido da interpretare questa storia senza andarci piano. Ma tra i dettagli più aberranti c'è il vizio che volti le spalle a quelli che vedi ignoranti. Senza riflettere sul fatto che ti annulli perché condividi il credo di quelli davanti. Singolare, come il plurale sia traviato da un processo già avviato di distacco calcolato. Regna l'illusione di un controllo più immediato dei processi che in realtà ci hanno già fagocitato. Guerra tra poveri di spirito, diatribe per il merito. Limbo feroce trascende dall'esito della contesa che svilisce ogni sforzo se dedito a mantenere salme apatiche sul palcoscenico. Il bello è che lo show adesso è più metodico. Non si arresta nel catodico. Leviatano, ormai non serve, è ironico. Orwelliano, siamo già oltre il distopico. E l'illusione, l'ovvio nei popoli. Una salita dove si scende a rotoli. Ecco perché punto il dito contro divisioni inutili. Voci smarrite dentro cori vuoti e muti, sì. Bianco o nero, mezze misure a rogo. Se sale la tensione il gioco è bello quando c'è uno sfogo. Nel mirino chi barcolla, astuti. Ingegneria sociale con le tattiche di Call of Duty. E se il potere è sempre altrove, quella è rabbia caricata a salve. Genera un errore, genera l'orrore della suefazione. A vederci meno chiaro come impostazione. Forse ti hanno raccontato che il tuo battito d'ali può generare un terremoto, beh. Ti sei forse svegliato un po' madido da interpretare questa storia senza andarci piano. Ma tra i dettagli più aberranti c'è il vizio che volti le spalle a quelli che vedi ignoranti. Senza riflettere sul fatto che ti annulli perché condividi il credo di quelli davanti.